canal grande, guarda la luna, sospira e fa. Sentimentale s'affaccia al ponte e canta così. Lei gli sorride, lui fa l'occhietto e tutto un tratto nasce l'amor. Ogni notte a Venezia con un quarto di luna vola sulla laguna il più bel sogno d'amor. Vola colomba, il sole indora, il vapore se ne va. Sul canal grande resta una scia, anima mia torna da me. Se mi vuoi bene pensami un poco, scrivimi tanto, non mi scordar. Ogni notte a Venezia con un quarto di luna scivola sulla laguna il più bel sogno d'amor. Laguna, il più bel sogno d'amor. Gondola, gondola, gondola.